Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Per ridurre il nostro imponente debito pubblico, che ha raggiunto l'astronomica cifra di 2.170 miliardi di euro, torna a riproporsi il tema delle privatizzazioni, cessioni di aziende pubbliche in poche parole e destinazione dei relativi incassi all'abbattimento dello stock del debito. Ma in che misura e con quali possibilità di successo si può riproporre oggi una politica di dismissione di imprese pubbliche? Non vi è il rischio che nella fase attuale che caratterizza i mercati finanziari, alla fine più che di una cessione possa trattarsi di una svendita? Per orientarci in questa complessa materia è utile fare un passo indietro agli anni 90, quando è stata avviata una massiccia operazione di privatizzazione di asset pubblici su cui il giudizio degli esperti e degli politici non è unanime. Questi dati raccolti da uno studio di Mediobanca sulle privatizzazioni in Italia dall'inizio degli anni 90 del Novecento. Tra il 1992 e il 2000, gli smobilizzi di imprese pubbliche hanno comportato introiti per circa 198 mila miliardi delle vecchie lire, di cui 122 mila miliardi per operazioni realizzate direttamente dal Tesoro, 56 mila miliardi per operazioni realizzate dall'IRI e 20 mila miliardi per operazioni realizzate da altri enti, tra cui Eni ed Efim. Il 63% degli introiti da privatizzazioni ha riguardato imprese industriali. Si tratta essenzialmente di cessioni degli ex enti di gestione, IRI, Eni ed Efim. Il Tesoro è intervenuto privatizzando Telecom Italia e SEAT per circa 24.500 miliardi, precedentemente rilevate dall'IRI, per consentire il rispetto dell'impegno sulla riduzione dei debiti di questo ente per la fine del 1996, conseguente all'accordo Andreatta-Van Miert. Le operazioni degli ex enti di gestione si sono sviluppate secondo criteri differenti. L'ENI ha considerato il programma di dismissioni come una semplice selezione del proprio portafoglio di business. L'EFIM ha operato nell'ambito di una procedura di liquidazione. L'IRI ha operato dapprima in un'ottica di superamento di condizioni finanziarie critiche, 80.000 miliardi di debiti finanziari accumulati e oltre 16.000 miliardi di perdite nel biennio 1992-93. Poi, dal 1997, in un'ottica di liquidazione di tutte le sue attività. Questo dunque è il bilancio delle privatizzazioni messe in campo negli anni 90, un bilancio su cui i giudizi politici divergono nettamente, come possiamo rilevare da questi tre interventi di Paolo Cirino Pomicino, che è stato ministro del bilancio dal 1989 al 1992, di Renato Brunetta, ex ministro della funzione pubblica del governo Berlusconi e attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera, e di Bettino Craxi, presidente del Consiglio dal 1983 al 1987, scomparso il 19 gennaio del 2000. Il 25% dell'economia italiana era nelle mani dello Stato, tutte le banche, grandi aziende pubbliche di grande valore strategico che erano nelle mani dello Stato e che lo Stato aveva anticipato di voler vendere. Ne cito solo alcune: la Telecom, l'Eni, l'Enel, le società autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche. In realtà le privatizzazioni sono state fatte male, sono state fatte in maniera confusa, a favore dei soliti noti, non a favore del paese. Non credo che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando. Abbiamo in linea il professor Emilio Barucci, docente di matematica finanziaria al Politecnico di Milano e autore di diverse pubblicazioni dedicate proprio al tema delle privatizzazioni, tra cui citiamo il libro scritto con Federico Pietrobono dal titolo Stato e mercato nella Seconda Repubblica, edito dal Mulino. Buonasera professore, grazie. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, ci aiuti un attimo a orientarci in questa complessa materia. Intanto il bilancio delle privatizzazioni degli anni, appunto, gli anni 90, di cui abbiamo parlato finora. Ma il bilancio, come spesso succede in queste operazioni così complesse, presenta dei punti di in chiaro scuro, come si può dire, nel senso che non ci sono state privatizzazioni che sono state fatte bene, altre meno, principalmente. L'elemento rilevante è stato individuare con chiarezza il soggetto industriale che era in grado di guidare la gestione dell'azienda privatizzata. Qualora si sia trovato al momento della privatizzazione un gruppo industriale che sapeva il mestiere e sapeva gestire bene gli asset, sostanzialmente le privatizzazioni sono andate bene. Nel caso in cui, come Telecom invece, non siamo stati in grado di trovare un assetto post privatizzazione stabile, efficace, la realtà non è stata all'altezza delle aspettative. Il bilancio è controverso, ad esempio l'effetto che ebbero le privatizzazioni sulla riduzione del debito. Come ne sappiamo, in realtà i proventi delle privatizzazioni vanno a ridurre il fondo di ammortamento dei debiti di Stato, ma è servito a ridurre il debito, professore? Allora, questo è un argomento che va affrontato su due piani diversi. Se lei mi chiede se le privatizzazioni hanno contribuito ad abbattere il debito in modo significativo, la mia risposta è non in modo sostanziale, nel senso che dai miei conti, andando anche negli anni 2000, arriviamo a 150 miliardi di euro di privatizzazioni, che sono a spanne rispetto ai tempi in cui si calcolano questi fanno queste valutazioni, un 10% del debito pubblico. E abbiamo privatizzato tantissimo, cioè siamo il secondo paese dopo l'Inghilterra in termini di privatizzazione. Le privatizzazioni hanno un valore su cui poi uno può dire si fa dell'ideologia, segnaletico, cioè danno l'idea che lo Stato non è più disponibile a supportare alcune aziende in condizioni economicamente non efficaci con soldi pubblici. Quindi questo si entra nel tutta la tematica dell'aiuto di Stato e così via. Quindi le privatizzazioni da questo punto di vista danno un segnale di uno Stato che non è più disponibile a creare posti di lavoro a spese di tutti i cittadini. Ecco, questo è un po' il punto importante da sottolineare. E venendo a oggi, si ripropone il tema delle privatizzazioni a torto o a ragione. Ad esempio, si discute in questi giorni sull'eventuale cessione di un'altra quota di Poste, da cui il governo potrebbe ricavare 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, ma a suo avviso è una operazione che ha una possibilità di successo, e soprattutto in che misura può incidere sulla riduzione del debito? Allora, qui bisogna, si ripropone un po' da parte dell'Europa, l'Europa ci richiama sul fatto che siamo in ritardo sulle privatizzazioni, si ripropone un po' il quadro appunto di cui dicevamo prima, a fine anni 90 dovevamo entrare nell'euro, Maastricht, si va a vedere se si privatizza come segnale che l'Italia si comporti per bene. Quindi, se devo essere sincero, non sono convinto che le privatizzazioni sia negli anni 90 che ora siano un vero segnale forte per passare gli esami in Europa, sostanzialmente. Questa è la mia opinione. Dopodiché si devono centrare degli obiettivi di bilancio, ovviamente le privatizzazioni sono uno strumento utile per raggiungere in una logica di breve periodo questo obiettivo. Vorrei anche dire che, parlando dell'oggi, il rischio è che si privatizzi, tra virgolette, non necessariamente svendendo, ma per fare cassa. Quindi le Poste sono state uno strumento che era in qualche modo, non dico facile privatizzare, ma che si sapeva da un punto di vista economico quanto potevano rendere una volta messi sul mercato. Quindi è, se vogliamo, un'operazione finanziaria. Mentre, ad esempio, molto più interessante potrebbe essere il discorso sulle ferrovie, che apre scenari molto diversi in termini di competizione su un mondo dei trasporti che sicuramente ha bisogno di una ventata di liberalizzazione. Ecco, e questo è il punto fondamentale, professor Barucci, perché una delle critiche che vengono rivolte alla politica di privatizzazione degli anni 90 e a seguire è che alle privatizzazioni non è seguita una politica di apertura al mercato, vale a dire liberalizzazioni, e quindi alla fine il rischio è che si passi da un monopolio pubblico a uno privato. È un rischio che corriamo tutt'oggi? Ma io su questo sono un po' più positivo, nel senso che se guardiamo telecomunicazioni, energia, due ambiti dove sicuramente ci sono state privatizzazioni, non possiamo dire che negli ultimi 20 anni non ci sia stata in qualche modo una liberalizzazione. Ognuno di noi può scegliere tra quattro operatori telefonici mobile, può scegliere il distributore dell'energia elettrica, del gas che meglio preferisce, e qualche effetto in termini a favore del consumatore a mio avviso c'è stato. Discorso diverso è privatizzare autostrade, appunto, o privatizzare ferrovie, dove lì ci sono dei monopoli naturali che sono molto più difficili da rendere effettivamente liberalizzati. Sì, il punto è che tutte le politiche di liberalizzazione degli ultimi anni, mi riferisco ad esempio alle famose lenzuolate di Bersani in poi, non hanno avuto successo, ma perché si riferivano in prevalenza a come dire, settori tuttora protetti, e quindi è un po' difficile scalfire posizioni di monopolio. Questo è un po' il problema. Non so se è d'accordo, professore. Sì, sono d'accordo con lei. Io devo dire, non c'è dubbio che la cultura del mercato è una cultura che ci vogliono anni davvero per farla penetrare in un'economia. Non è qualcosa che i cui effetti si vedono nel brevissimo termine. Quindi starei, non mi aspetterei risultati miracolistici dalle liberalizzazioni nel brevissimo termine. E quindi diciamo, ci sono stati fatti dei passi, le autorità sui mercati devono essere ulteriormente rafforzate. Però ecco, non ci aspettiamo risultati eclatanti nel brevissimo termine. Bene, grazie professor Barucci e buona serata. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata.